su CRM Happy Radio Déjà Vu con Mary Catalano. Ed è con il Coldplay che questa mattina inizio un nuovo appuntamento insieme a me, che sono sempre io, sono sempre Mary Catalano. Ancora buongiorno a tutti voi, siete all'interno di Déjà Vu, Déjà Vu, l'appuntamento del martedì e del giovedì, che su CRM, naturalmente insieme a me, che vi accompagno sino a mezzogiorno anche per quest'oggi. Oggi giovedì 9 maggio, fa caldo, si sta proprio bene, una splendida giornata. E non possiamo che essere felici di questo, d'altronde ormai non possiamo che aspettarci soltanto belle giornate, salvo sporadiche, appunto, giornate magari, che ne so, nuvolose, ma ormai il freddo ce lo siamo proprio lasciate alle spalle. Siamo già al 9 di maggio, siamo vicini all'estate, ci stiamo già facendo i conti per quanto riguarda le nostre vacanze estive, vero? ci stiamo già pensando. Naturalmente noi siamo qua ad accompagnare tutte le vostre giornate, dovunque voi siete, comunque sia, portateci dietro anche tramite internet, se volete ci seguite in streaming dovunque al nostro sito, come sapete, il www.crmpiradio.it. Da lì fate anche la vostra segnalazione musicale se volete, e poi non dimenticate che c'è anche la nostra pagina Facebook e naturalmente anche il nostro indirizzo, il nostro numero telefonico, il numero per gli sms, ovvero il 335 56 37 251, e poi il numero fisso, lo 0921 92 32 92. Ormai è superfluo ricordare questi numeri perché sicuramente molti di voi, quelli proprio che stanno sempre insieme a noi, sanno a memoria più di me questi numerini magici, però è nostro dovere ricordarlo a chi magari è più distratto, a chi incappa nella nostra musica solo per caso, perché no, può capitare, a chi in questo momento girando, facendo zapping per così dire sulla radio della propria vetturina, ecco che arriva qui insieme a noi di CRMF Radio, mentre guida anche a te, mentre tu stai guidando bello tranquillo, forse tranquillo no, comunque sia noi ti teniamo compagnia, resta con noi, non cambiare stazione, e arriva una cosa bellissima di Alanis Morissette. Ancora una volta ben trovati. If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Morris, Alanis Morissette all'interno di Deja Vu con questo splendido singolo che si chiama End Clean. Ancora buongiorno e ancora ben trovati all'interno di Deja Vu, l'appuntamento del martedì e del giovedì appena cominciato insieme a Mary Catalano, che vi trascinerà sino a mezzogiorno con la musica più bella di oggi ma anche del passato. In questo momento ascoltiamo Vasco Rossi con Senza Parole, una bellissima canzone di qualche tempo fa che ci piace ogni tanto ricordare e riproporre all'interno di questo appuntamento. E ho capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire, mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare, di non guardare. E ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore. Non ho più pensato a tutte queste cose. Come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose. C'è una frase che mi colpisce tanto all'interno di questo singolo di Vasco Rossi, ovvero: guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo, eccetera eccetera. Beh, è proprio così. Non guardate troppa TV, non state troppo davanti alle cose, non guardate troppo la vita degli altri, soprattutto guardate la vostra vita, vivetevela, soprattutto non fatevela rubare da niente, ok? Perché è una sola e si vive a pieno. Ok, intanto una brevissima pausa qui su CRN e poi ritorniamo sempre all'interno di Deja Vu con un singolo tutto italiano ancora una volta, però diciamo di questo periodo, anzi senza diciamo, è proprio di questo periodo, il nuovo lavoro per quanto riguarda Francesco De Gregori, che sentiremo con Guarda che non sono io. Rimanete là, stiamo ritornando. Come Come fai ad avere un'azienda così splendente? Semplice, mi fornisco da LR Chimica. Producono detergenti professionali per le imprese, la casa e anche per gli autolavaggi. LR Chimica, zona industriale Termini Imerese. Prova il nostro kit promozionale. Telefona allo 091 630 42 24. LR Chimica, pulito, garantito. Ed inoltre trovi i prodotti per la tua piscina. Déjà vu su CRM Happy Radio. Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto, che ti prende la mano e che ti asciuga il pianto. Cammino per la strada, qualcuno mi vede e mi chiama per nome. Si ferma e mi ringrazia, vuole sapere qualcosa di una vecchia canzone. Ed io gli dico: scusami, però non so di cosa stai parlando. Sono qui con le mie buste della spesa, dove ti sto scappando. Se credi di conoscermi, non è un problema mio. E guarda che non sto scherzando, guarda come sta piovendo, guarda che ti stai bagnando, guarda che ti stai sbagliando, guarda che non sono io. Guarda che non sono io quello che mi somiglia, l'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia, il vagabondo sul vagone, la pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia, che non vale niente e che ti porti via. Cammino per la strada, qualcuno mi vede e mi chiama per nome. Si ferma e vuol sapere, mi domanda qualcosa di una vecchia canzone. Ed io gli dico: scusami, però non so di cosa stai parlando. Sono qui con le mie buste della spesa, dove ti sto scappando. Se credi di conoscermi, non è un problema mio. E guarda che non sto scherzando, guarda come sta piovendo, guarda che ti stai bagnando, guarda che ti stai sbagliando, guarda che non sono io. È bella, dai. è proprio bella questa canzone di Francesco De Gregori, Guarda che non sono io, all'interno del suo nuovo album che si chiama Sulla strada. E che bello, diventeremo tutti dei supereroi, sì, proprio così, sembra proprio che potremmo avere la possibilità di indossare una maschera dai superpoteri, sembra che presto esisterà questa cosa, la tecnologia si avvicina a Iron Man. Un amplificatore sensoriale indossabile permette di analizzare la realtà in tempo reale, potenziando le funzionalità dell'udito e della vista, pensate, come nei film tratti dai fumetti Marvel. Ancora un progresso dunque nel campo della tecnologia indossabile, su cui stanno investendo tutti i big del settore, e diciamo che c'è un progetto della Royal College of Art di Londra che appartiene proprio alla realtà, si chiama progetto Eidos e si basa su questa maschera ad alto contenuto elettronico divisa in due parti, capace di amplificare la portata e la funzionalità dell'udito e della vista, un vero e proprio dispositivo per ora a livello di prototipo naturalmente, che però in un prossimo futuro potrebbe diventare qualcosa di molto simile al casco del personaggio creato dalla Marvel. Si tratta in realtà di due unità distinte della maschera, una per la parte inferiore del viso e una per quella superiore. Il prototipo esiste al momento soltanto per coprire la bocca, orecchie e naso. Attraverso l'uso di un microfono direzionale può amplificare l'audio proveniente da una determinata sorgente anche in ambiente rumoroso, ad esempio per udire le parole di una persona specifica in una stanza con molte voci che si sovrappongono. Per quanto riguarda gli occhi, la sezione visiva è dotata di un sistema di acquisizione video che invia le immagini che capta a un elaboratore, che in tempo reale restituisce dei dati provenienti dalle analisi delle immagini, ad esempio, o può individuare degli schemi di movimento nei soggetti presenti nell'immagine, tracciandone il percorso sul display. Secondo gli ideatori del progetto, la tecnologia si può applicare a diverse situazioni nella vita reale, da quelle ludiche ad altre più tecniche e più professionali. Davvero una cosa straordinaria la maschera, che si può quindi definire un amplificatore sensoriale. Il progetto è appena all'inizio e si inserisce nel filone della tecnologia indossabile già percorso da Google con i Glass e dai dispositivi come gli orologi smart che arriveranno sul mercato entro il 2014, prodotti dai grandi nomi del tech come Apple, Samsung, Microsoft, eccetera eccetera. Quello della realtà aumentata è un concetto che va quindi a innestarsi anche sulle possibilità di percezione e sulla funzionalità dei sensi umani. Forse la maschera da sola non permette di circolare con un cervello elettronico potente come quello di Iron Man, ma se si immagina cosa può diventare questa tecnologia nel giro di 10 anni, la visione di Hollywood non appare così lontana, che ne dite? Sembra proprio che facciamo dei passi da gigante sotto questo punto di vista. Arriva Chiara Gagliazzo insieme a Fiorella Mannoia per questo bellissimo singolo che si chiama Mille Passi. Un passo me ne vado per sempre, un passo grande, un passo così importante. Due passi senza guardarti, due passi avanti, due passi per dimenticarti. Tre passi verso le stelle, fino a toccarle. Tre passi per avvicinarle. Quando tornerai? No, che non tornerai. Quando tornerai? Lontano da qui sarai. Quando tornerai? Un giorno, forse mai. Quando tornerai? Ho fatto un passo quando ormai. Quando tornerai? Così lontani quando sai. Tornerai? Un giorno, forse mai. Quattro passi voglio ricordarti, rivedo i nostri sguardi. Quattro passi forse è già tardi. Cinque passi senza cadere, continuo a camminare. Cinque passi per perdonare. Mille passi senza voltarmi, non voglio più contarli. Mille passi per guardare avanti. quando tornerai. No, che non tornerò. Quando tornerai, lontano da qui sarò. Quando tornerai, un giorno, forse mai. Quando tornerai, un passo via da quando noi. Quando tornerai, siamo lontani ormai. Quando tornerai, un giorno, forse mai. Quando tornerai, un passo via da quando noi, tornerai, siamo lontani ormai. Quando tornerai, un giorno, forse mai. Quando tornerai, no, che non tornerò. Quando tornerai, lontano da qui sarò. Quando tornerai, un giorno, forse mai. Forse mai, forse mai. Bellissimo questo singolo che vede la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia in compagnia di Chiara Galeazzo, naturalmente emergente della musica italiana. E arrivano gli due. Like a sore head, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we go swimming out, on rainy days swimming in the sand. On rainy days we go swimming. There must be some way back. With love and only love. Come along, won't let you back to sleep. You kept awake, dreaming someone else's dream. Coffee is cold, but it will get you through. Compromise, that's nothing new to you. Let's see, cause that'll never be seen. It's got a place that no one else has been. In my mind, all the time, I know that's not enough. Well, if the sky can crack, there must be some way back. Electrical Storm, il singolo per gli U2, questo CRM Pirelli all'interno di Deja Vu, e parliamo di adolescenza e internet ai giorni nostri. L'eccesso di internet influisce negativamente, si sa, sui comportamenti e abitudini non direttamente collegate all'uso della rete. In particolare gli adolescenti che navigano su internet per più di 3 ore al giorno hanno abitudini alimentari peggiori, sono più inclini al rischio, fumano e bevono di più e poi leggono di meno, hanno un rendimento scolastico inferiore, hanno comportamenti sessuali più adultizzati e praticano meno sport e lo fanno con un atteggiamento molto più orientato alla vittoria che alla pratica ludica. A lanciare l'allarme è l'osservatorio della Società Italiana di Pediatria su abitudini e stili di vita degli adolescenti italiani, che indaga annualmente dal 1997 un campione nazionale di adolescenti che frequentano la terza media, quindi 12-14 anni, e ci sono dei comportamenti davvero da far drizzare i capelli, soprattutto ai genitori. Nel decreto l'osservatorio ha rivelato che più di una ragazza su 3, tra quelle che usano internet per più di 3 ore al giorno, mette foto provocanti in rete, una su 4 ha dato il numero di telefono a uno sconosciuto o inviato una foto, una su 6 ha accettato proposte di sesso virtuale fatte da uno sconosciuto e una su 5 arriva addirittura all'incontro. La proiezione sempre più massiccia di internet e quindi la sempre maggiore conoscenza dello strumento, invece di indurre i giovani utenti ad atteggiamenti più consapevoli e quindi più prudenti, li spinge ad assumere comportamenti sempre più liberi e trasgressivi, avverte Maurizio Tucci, curatore delle indagini SIP e presidente dell'Associazione Laboratorio Adolescenza. In ciò si evidenzia quanto sia carente un'adeguata formazione ed informazione da parte degli adulti di riferimento su un corretto utilizzo del mezzo. È proprio il mezzo a fare infatti la differenza. Questi dati ci mostrano una parte di adolescenti che vuole crescere in fretta e che desidera legittimamente travalicare i limiti, come accade fisiologicamente in questa fase della vita. E naturalmente tutto questo lo commenta il responsabile Federico Tognoni, responsabile del centro per le dipendenze da internet del Policlinico Gemelli di Roma. Il problema è che questo oggi avviene senza un'autentica maturazione interiore, perché crescere vuol dire vivere emozioni crescenti che, al contrario, nel mondo del web sono in qualche modo schermate. Quindi attenzione genitori, guardate bene cosa combinano i vostri figli adolescenti, quante ore stanno su internet, perché no, anche se non si fa, ogni tanto andate a curiosare, magari anche di nascosto. Lo so, non dovrei dirlo a qualcuno che mi sta sentendo in questo momento, dice: ma che stai di, non si fanno queste cose. Però per il bene dei propri figli certe volte si ricorre anche a questo, vero? Lo sanno bene tutti i genitori all'ascolto. Intanto, se vedete vostri figli che ascoltano la musica, andate sul sicuro. Se sentite, se vedete che stanno con le cuffie all'orecchio, assicuratevi che sia musica quella che stanno ascoltando. E non fa mai male questa, si sa, è solo salute e benessere. E noi continuiamo a proporvela la musica qui su CRM, questa volta la musica italiana di Mango, che sentiamo con La Rondine. La non ti leggerò, baciandoti sulla bocca. Lo scriverò un'altra volta, nonostante tu sia la mia rondine andata via. Se il mio volo a metà, se il mio passo nel vuoto. Dove sei, dove sei? Dove sei, dove sei, dove sei? Unico amore che rivivrei, sai di vento del nord, sai di buono ma non di noi, e stessa luna a mezza, se nel cielo sbagliato. Déjà vu su CRM Happy Radio. Hard to conceal, can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death. They receive you on, still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Yeah. un connubio fantastico quello tra la musica di Puff Daddy insieme a Faith Hill e le sonorità dei Police per un grande successo quale Every Breath You Take, rifatto in questa versione qualche tempo fa da Puff Daddy, quindi dandogli il titolo I've Been Missing You. Questo CRM T-Radio all'interno di Deja Vu, e potrebbe essere non molto lontano il futuro che ci vede sempre più giovani invecchiando, cioè più invecchiamo più sembriamo giovani, o comunque manteniamo insomma le nostre caratteristiche giovanili. L'altra volta, nello scorso appuntamento, abbiamo parlato della possibilità in un futuro imminente di non avere più i capelli bianchi grazie a delle nuove ricerche. Ebbene, c'è un'altra cosa straordinaria, si sta trovando una cura, o comunque la possibilità, si sta studiando un nuovo trattamento per far sì che non ci siano più calvi in giro. Sì, proprio così, una cosa davvero importantissima per tutti quelli che sono costretti a tagliare i capelli a zero, a rasarsi, perché appunto perdono i capelli, e allora tanto vale via tutto. No, è un trattamento da vampiri e contro le calvizie maschili. Dunque, l'idea è di una nuova ricerca condotta da un team di studiosi dell'International Hair Researching Foundation dell'Università di Brescia. Il Vampire Treatment si chiama, e consiste nel prelevare un campione di sangue dal paziente affetto dalla calvizie, dal quale estrarre plasma ricco di piastrine per poi iniettarle successivamente nelle parti della testa prive di capelli per stimolarne la crescita attraverso l'impulso delle nuove cellule staminali prodotte sotto la pelle del paziente. Appunto, trattamenti del genere con iniezioni al plasma ricco di piastrine sono già utilizzati in alcuni interventi estetici per ridurre gli effetti dell'invecchiamento del viso e delle mani. I ricercatori ritengono che il trattamento possa aiutare anche chi soffre della comune calvizie maschile. A tal proposito, Fabio Rinaldi, presidente dell'International Hair Research Foundation, ha spiegato: pensiamo che il trattamento possa stimolare la ricrescita dei capelli delle persone affette da alopecia, ecco, scusate l'ignoranza, ma non sono dottoressa, purtroppo, alopecia androgenetica, e che costituisca la migliore alternativa disponibile oggi oltre all'intervento chirurgico. Quindi davvero questa è una cosa straordinaria che farà felice sicuramente, una notizia importantissima, e farà felice tutti quelli che hanno problemi appunto di caduta di capelli. Intanto arriva Marco Mengoni per voi. Con te Déjà Vu su CRM Happy Radio. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere. I got a space, I found some better place, and I miss you. Dopo un inverno abbastanza rigido, siamo davvero molto molto felici che la stagione bella sia arrivata e che quella calda sta per arrivare. Stiamo parlando dell'estate e dobbiamo come sempre fare le raccomandazioni, dobbiamo stare attenti alla pelle, non prendere troppo sole, ok, sì, stare attenti alla pelle sì, ma non troppo però, perché il sole fa bene all'organismo. Certo, è difficile districarsi fra i vari suggerimenti che emergono dalle ricerche sull'esposizione o meno ai raggi solari. L'ultimo studio dell'Università di Edimburgo afferma perentoriamente che stendersi al sole produce più benefici che rischi, dal momento che la pelle esposta ai raggi solari rilascia un composto chimico nei vasi sanguigni che serve ad abbassare la pressione sanguigna, riducendo di conseguenza il pericolo di morte per infarto o ictus. Pensate, questo beneficio, secondo i medici scozzesi, supererebbe di gran lunga l'eventuale rischio di tumore alla pelle, perché i decessi per motivi legati a patologie di natura cardiovascolare sono nettamente superiori rispetto a quelle causate dalla melanoma o da altri tipi di neoplasia dell'epidermide. Senza contare poi la stimolazione della produzione di vitamina D, fondamentale per le ossa. I ricercatori hanno analizzato gli effetti del sole su un campione di 24 persone che si sono sottoposte a due diverse sessioni di 20 minuti attraverso lampade abbronzanti a base di raggi UV. Nella prima sezione la lampada emetteva regolarmente i raggi, mentre nella seconda soltanto calore. Nel primo caso la pressione sanguigna è calata in maniera significativa, mentre è rimasta invariata nella seconda sessione. Il dottor Richard Weller, autore dello studio, spiega: abbiamo il sospetto che i benefici per la salute del cuore della luce solare supereranno il rischio di cancro della pelle. Lo studio che abbiamo condotto fornisce un procedimento che protegge, che potrebbe spiegare tutto questo. E inoltre spiega il dottore anche perché una dieta con integratori di vitamina D da sola non sarà in grado di compensare la mancanza di luce solare. Continua: abbiamo ora in programma di esaminare i relativi rischi di malattie cardiache e il cancro della pelle in persone che hanno ricevuto diverse quantità di esposizione al sole. Se questo conferma che la luce solare riduce il tasso di mortalità da tutte le cause, avremo bisogno di riconsiderare i nostri consigli sull'esposizione al sole. Ti capito? Quindi attenzione, sì, al sole, però fino a un certo punto. E fra l'altro lo vediamo anche sulla nostra pelle, che comunque d'estate migliora, comunque siamo più belli, e quindi un motivo ci sarà, proprio il fatto che ci esponiamo di più al sole. È così. Marco Masini, per le vostre orecchie all'interno di Deja Vu, questo è il nuovo singolo per lui, Io ti volevo. Prima di andar via c'è qualcosa che voglio dirti adesso, e mi ascolterai anche se per te oramai è lo stesso. Non ci crederai, forse riderai, ti sembrerò un po' fuori tempo, ma la verità è che non ho avuto mai niente di più bello di te. Di te confesso, io ti volevo vivere, ma ti sapevo uccidere. Io ti volevo stringere, ma non ti sapevo prendere. Io ti volevo complice, ma ti sapevo escludere. Io ti volevo fragile e ti lasciavo piangere. Io ti volevo cogliere, ma non ti lasciavo crescere. Io ti volevo vincere e ti ho saputo perdere. Ma ti volevo, ti volevo, ti volevo. Poi sei andata via e stavolta sai, sono io che ho pianto. E ora non ho più quel potere che ti inchiodava accanto. Non ci crederai, forse riderai, ma se ti salvi sono contento, libera da me, e ora sono io schiavo di un ricordo di te. Di te confesso, io ti volevo vivere, ma ti sapevo uccidere. Io ti volevo stringere, ma non ti sapevo prendere. Io ti volevo complice, ma ti sapevo escludere. Io ti volevo fragile e ti lasciavo piangere. Io ti volevo docile e non ti lasciavo scegliere. Io ti volevo vincere e ti ho saputo perdere. Ma ti volevo, ti volevo, ti volevo, perché la verità è che non ho avuto mai niente di più bello di te. Deja Vu su CRM Happy Radio. Yeah man, Archie baby. Yeah. It's so crowded up in here, what you doing all alone? so dark in here, plus you ain't even got your phone. What kind of man would ever want to leave your side? Shame on him, you coming home with me tonight. Hey, go missing. Go missing. Can't you tell you you shouldn't go? Don't listen. I'ma take care of you for sure. Turn around, you can follow me right out that back door. Go missing. Oh. Go missing. Go missing, baby. Go missing. Baby, we can keep it on the low. Go missing. Yeah. Go missing. Listen. Reckless abandon. Go ahead and party, girls. They probably got somebody taking care of them. Girl, to each his own. I promise if you come with me, I'll make sure you get home in the morning. Make up your mind, girl. What's it gonna be? Keep in mind we gotta leave before they turn the light on. I'm gonna grab my keys. Don't you overthink. Trust me, if they were you, I bet they would have been long. Go missing. Go missing. Conscious telling you you shouldn't go. Don't listen. I'ma take care of you for sure. Turn around, you can follow me right out that back door. Go missing. Oh. Go missing. Go missing, baby. Go missing. Baby, we can keep it on the road. Go missing. Yeah. Go missing. Listen. Come with me, shawty. Forget about him. Call me Big Daddy to the morning. Do yourself a favor tonight. Cause a chance like this only happens once in a lifetime. Come with me, shawty. You wanna get in? You and me, shawty. I'ma take you out of here. So do yourself a favor tonight. Oh, girl, let's go. Conscious telling you you shouldn't go. Don't listen. I'ma take care of you for sure. Turn around, you can follow me right out that back door. Go missing. Go missing. Go missing, baby. Go missing. Baby, we can keep it on the low. Go missing. Asher CRM ti radio all'interno di Deja Vu con il nuovo singolo che si chiama Go Missing, e naturalmente insieme ancora per circa 40 minuti, sì, belli e buoni, per ascoltare la musica più bella di oggi e del passato, per raccontarvi qualcosina, perché no, e parliamo anche di salute e soprattutto di notizie sulla salute. Ormai siamo informati a tutto tondo, se accendi la TV ti parlano della salute, se vai su internet, se vuoi, trovi di tutto sulla salute, se parli con gli amici spesso si parla di salute, e tutte queste notizie di salute non faranno mica male? Sì, se troppo allarmistiche, sì, proprio così, le notizie di salute possono farci ammalare persino, forse sì. Infatti quando sentiamo alla TV che una certa cosa può rappresentare un rischio per la salute, ad esempio le onde degli apparecchi wifi o i telefonini, molti di noi cosa fanno? Sono suggestionabili e provano questi sintomi paventati dai media, anche se in realtà non sono stati esposti ad alcun rischio. Lo rivela uno studio, non lo dico io, e quando ci dicono di prendere un farmaco che a nostra insaputa è finto e ci sentiamo meglio anche se non abbiamo assunto nulla, subiamo l'effetto placebo, e viceversa quando ci dicono che un farmaco ci procurerà effetti collaterali, spesso proviamo quei sintomi anche se ci hanno somministrato solo un farmaco finto, effetto nocebo. Gli esperti hanno dimostrato che anche i media, con i loro contenuti spesso allarmistici, procurano effetti nocebo. I ricercatori hanno diviso un campione di persone in due gruppi. A uno hanno mostrato un documentario BBC sui rischi dell'esposizione a onde elettromagnetiche e all'altro un documentario sulle tecnologie wifi. Poi hanno detto loro che si trovavano in un ambiente con presenza di onde elettromagnetiche da apparecchi wifi. Ebbene, coloro che avevano visto il documentario sui rischi delle onde tendono a manifestare la sintomatologia dell'ipersensibilità elettromagnetica, o ad esempio mal di testa, distrazione, confusione, vertigini, eccetera, eccetera. Eppure non erano stati esposti ad alcuna onda. L'esperimento mostra dunque l'impatto che può avere una notizia allarmistica sulla salute di chi la riceve. Quindi forse facciamo bene proprio a non sentire troppe notizie negative per quanto riguarda la nostra salute. Se proprio non ce n'è bisogno, evitiamo, andiamoci a cercare le notizie più simpatiche, più curiose, più allegre, e soprattutto ascoltiamo la musica che non fa mai male. Red Chili Peppers, This Precious Smile, singolo che sentiamo. Su CRM Happy Radio. Long are the days when you're turning away from the reasons you strove. Long is the way. teeth by your tongue. Loud as the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Love that I need. E se vi chiedo qual è il vulcano più irrequieto dello Stivale, cosa mi dite? L'Etna. Certo, è l'Etna proprio, il vulcano più irrequieto dello Stivale, che sarà iscritto a giugno nella World Heritage List ed è il quarto sito italiano ad entrarvi per motivi naturalistici. Quindi per l'UNESCO l'Etna è patrimonio dell'umanità, questo è davvero importante. Per noi siciliani si chiama a montagna, così soprannominata, ed è già un gioiello, ma il suo valore verrà presto riconosciuto ufficialmente anche a livello mondiale. Proprio a giugno infatti l'Etna entrerà a far parte dei patrimoni tutelati dall'UNESCO in una cerimonia che si terrà a Phnom Penh in Cambogia in occasione della 37esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale davanti ai rappresentanti di oltre 180 paesi. Si tratta del quarto tesoro ambientale nostrano che ottiene il prestigioso status dopo le isole Eolie, Monte San Giorgio e Dolomiti. L'Italia si conferma terra di risorse naturali di valore inestimabile, spesso purtroppo trascurate o non tutelate. Finalmente in questo caso invece c'è questa opportunità per il nostro paese per coniugare la tutela dell'ambiente con la valorizzazione del territorio, investendo così nello sviluppo sostenibile. Insomma, la strada che dobbiamo percorrere sarebbe proprio questa ed è a quanto pare quella giusta. giusta per essere sempre più importanti nel mondo. Importante invece un altro singolo che vi faccio ascoltare di alcuni anni fa, delle All Saints, si chiama Pure Shores. Importante perché ai tempi riscosse molto successo, e importante anche perché ancora oggi quando lo ascoltiamo ci piace, no? Dite che non è così? Non ci credo. All Saints, Pure Shores. Su CRM Happy Radio. Yeah. Zucchero Sugar Fornaciari ha pensato bene di metterci a ballare. Sì, di fare qualcosa che ci spingesse per forza proprio di cose a ballare, anche se non vuoi, comunque ti muovi con questo nuovo singolo per lui, Nena, questo CRM di Radio, insegnami a bailar. Bella canzone che sentiremo per i prossimi mesi estivi sicuramente tantissimo, e soprattutto che balleremo tantissimo. Siete dei collezionisti? E in particolar modo vi piace collezionare orologi? E allora alla vostra collezione manca un orologio prestigiosissimo della Ferrari, che costa praticamente più della Ferrari, però questo è l'unico neo. Proprio così, si chiama Ablut MP05 la Ferrari, ed è appunto questo il nome di questo nuovo orologio high tech realizzato interamente a mano da maestri orologiai della Ablut per onorare il lancio della spettacolare la Ferrari. La nuova supercar di straripante potenza di Maranello costa più di €1 milione, ma questo orologio non è da meno, dato che si trova a circa €250.000, molto più di molte vetture della scuderia italiana, ragazzi, è proprio una roba da ricconi. La nuova Ferrari, dunque, la allacci al polso e te la porti sempre dietro per ammirarla ogni istante senza problemi di parcheggio e senza consumare nemmeno un litro di benzina, proprio perché appunto è un orologio davvero iper tecnologico, confezionato interamente a mano da maestri orologiai della Ablut, come dicevamo, per onorare appunto il lancio della spettacolare la Ferrari. E naturalmente tutti i collezionisti faranno i salti mortali per avere un orologio così, no? E staranno già cominciando a mettere un gruzzoletto da parte per cercare di aggiudicarselo, anche perché poi ci sono soltanto 50 esemplari a un costo ciascuno di $300.000, pari a, come dicevamo prima, a circa €250.000. Insomma, il valore diventerà ancora maggiore col passare degli anni e saranno dei veri e propri gioielli da collezione. E quindi tutto questo per far venire un po' l'acquolina in bocca a tutti i collezionisti appunto che sono all'ascolto. Intanto arriva Francesco Renga con questa splendida cosetta che si chiama La tua bellezza. Mancano solo 10 minuti a mezzogiorno, ai noi pazienza, comunque CRM mica si ferma con la musica, lo sapete, ma finisce Déjà Vu. Mentre aspetto che tutto finisca e ti guardo perché sei perfetta, sei la cosa che più mi spaventa. Mentre togli il vestito di fretta, non rimane che la meraviglia che la tua pelle nuda risveglia. Sto precipitando, amore mio, come la pioggia sul tuo viso, come il cielo quando crolla all'improvviso. Se la tua bellezza furiosa e nobile ha qualcosa che somiglia alla parte migliore di me, sull'ultima giostra, come sopra 2 metri di onda, ogni mio desiderio si incendia. Stanno rotolando, amore mio, queste stagioni come sassi in un torrente, come fanno i nostri sogni. Se tua bellezza furiosa e nobile ha qualcosa che somiglia alla parte migliore di me, se la tua bellezza è la tua bellezza, ha qualcosa che somiglia alla parte migliore di me. Oh, inside.